Cari amiche e cari amici, bentrovati, martedì sera Maridì ai microfoni. È una giornata veramente speciale quella di oggi, è una giornata in cui Bruxellando va in onda eccezionalmente, quindi ringrazio anche l'equipe della radio di Radio Alma che ci ha dato l'opportunità e la possibilità di poter essere qui con voi questa sera. È il 25 dicembre, è il giorno di Natale, quindi ne approfittiamo per augurarvi un ottimo Natale. D'altronde le feste sono talmente lunghe che c'è la possibilità poi di augurarsi fino al 6 gennaio ancora più volte tante belle cose, perché insomma questi sono giorni nei quali si riesce a vedere la famiglia, si riescono a vedere gli amici, si riescono probabilmente a fare tante cose che in genere durante l'anno non si riescono a fare. Che dire quindi, Bruxellando è qui con voi questa sera. Non abbiamo ospiti telefonici, quindi sarà una puntata sicuramente più breve del solito, però ci tenevamo a farvi un po' di compagnia, già che il 25 dicembre è un martedì, quindi Maridì dai microfoni di Bruxellando e di Radio Alma vi augura davvero una splendida serata in nostra compagnia. Come più volte sottolineato in questi giorni, l'agenda di Bruxellando è ricchissima. È un'agenda veramente piena di eventi e a volte noi stessi, quando insomma siamo invitati a partecipare a queste serate, che anzi a volte ci vorrebbero più serate per poter soddisfare tutti, è davvero arduo scegliere. Però ci tengo ancora a ricordare uno spettacolo al quale noi abbiamo anche assistito, che è la Framboise Frivol, la quale è praticamente on the stage, quindi sul palcoscenico fino al prossimo 6 gennaio, e è praticamente una commedia teatrale, si traveste un po' da musical, quindi c'è quest'area un po' musicale in cui si ricordano tanti motivi, tante aree natalizie che siamo già abituati ad ascoltare, però in chiave un po' moderna, in chiave un po' diversa, altrimenti l'originalità artistica di questo nostro amico Peter Hens, che saluto ancora una volta, il suo talento, il suo genio non sarebbero apprezzate. Quindi vi ricordiamo ancora la Framboise Frivol, che è andata in scena praticamente anche stasera al Beaux-Arts e che andrà in scena ancora fino al prossimo 6 gennaio, compreso il 31 di dicembre. Quindi per quanti si trovassero a Bruxelles, per quanti rientrassero magari già dall'Italia e per quanti all'ascolto, vi ricordo che questo è un evento al quale vale la pena veramente partecipare, non fosse altro che c'è la possibilità veramente di ridere, di rilassarsi per più di un'ora, anzi un'ora e 50, e c'è un grande iPad che domina la scena e che a un certo punto diventa veramente l'attore protagonista, riuscendo poi a manipolare così almeno quella è l'impressione che abbiamo avuto da lontano, anche quella che è la musica e quindi la scenografia stessa del teatro, che cambia atmosfera, il tutto condito dalla simpatia di questo attore che noi non conoscevamo ma che seguiremo con piacere dovessero esserci altre sue pièce teatrali. Invece ci sono invece poi torneremo a parlare anche dell'agenda di Bruxellando, e volevo iniziare soprattutto, essendo questa l'ultima puntata del 2012, volevo ricordarvi e volevo salutare in effetti tutti quelli che sono stati i nostri ospiti, e sono stati tantissimi, perché Bruxellando ha cercato poi nel tempo, come avete potuto notare, di cambiare anche un po', di arricchire i contenuti, e abbiamo avuto diplomatici, abbiamo avuto ambasciatori, consiglieri di ambasciata, abbiamo avuto scrittori noti, meno noti. Vi ricordo l'anno scorso è stato con noi per esempio Marco Malvaldi, il quale tra l'altro probabilmente sarà ancora nostro ospite proprio nel 2013, perché ha appena pubblicato la sua ultima fatica letteraria, Milioni di Milioni, sempre edito da Sellerio, che sarà con noi a gennaio. Abbiamo intervistato anche giovanissimi scrittori che proprio con Bruxellando proprio avevano esordito, per esempio con Sara Rattaro, che oggi insomma oggi per modo di dire, ma che quest'anno è ritornata nuovamente sulla scena letteraria, e con un uso qualunque di te, un romanzo che se ancora non avete pensato a qualche regalo, veramente vi consiglio di regalare perché è la descrizione di una donna sicuramente molto moderna, all'avanguardia, emancipata, che nel suo percorso e nella sua avventura vi colpirà tantissimo. Io voglio salutare anche qualcuno che è qui con me in studio e che si trova eccezionalmente con me, quindi insomma, e che ovviamente resta silente perché ha vergogna di essere ricordata, e quindi vabbè, dice che non la devo salutare, quindi non la salutiamo. Però io saluto invece Sara Rattaro e veramente vi consiglio di leggerla. Così come saluto il nostro Dani M, il quale invece è pronto per un suggerimento musicale. Sono tra l'altro felicissima e sono nuovamente qui con voi in studio perché di recente abbiamo saputo proprio attraverso il nostro amico Stefano Baldi, che ringrazio ancora per la sua preziosissima collaborazione anche quest'anno, perché proprio di qualche giorno fa il discorso del Presidente della Repubblica, del Presidente Napolitano, il quale ha menzionato i libri scritti dai diplomatici. Poiché Brussellando si occupa anche della pena del diplomatico, proprio grazie al nostro amico Stefano, io ci tengo a leggervi magari qualche riga di quello che è stato il discorso del presidente, il quale sostiene ovviamente non a torto che la Farnesina è una buona scuola per il servizio dello Stato. Lo dimostrano la professionalità e l'abnegazione con cui i diplomatici svolgono quelli che sono i loro incarichi, e esprime anche risorse di talento e di cultura. E il presidente ha citato Boris Bianchieri, l'Ambra del Baltico, e anche Maurizio Serra, che come vi ricorderete è stato nostro ospite proprio qualche tempo fa e che ha curato una biografia su Curzio Malaparte, a cui è stato anche attribuito il premio Goncourt. Quindi io sono effettivamente felicissima di questa menzione, perché effettivamente questo è un felice binomio che si è creato qui a Brussellando e che conferma, così come sostiene Giorgio Napolitano, quello che è la vivacità intellettuale dei nostri diplomatici. Proprio martedì scorso è stato con noi Domenico Vecchioni, ambasciatore oggi a riposo, che annualmente riesce sempre a sorprenderci. A giugno l'avevamo intervistato proprio su un'eroina dell'America Latina, che era la mitica Peron, e invece poi martedì scorso l'ambasciatore ci ha raccontato di quelle che sono state purtroppo le peripezie, chiamiamole così, di un certo Pol Pot, che insomma in Cambogia sicuramente oggi non è molto amato. Quindi ci tenevamo poi a concludere proprio quest'anno di Brussellando anche con questa citazione del Presidente della Repubblica, proprio perché è conferma anche di quel piccolo lavoro che Brussellando svolge durante l'anno, che è proprio quello di far conoscere degli scrittori che non sono propriamente scrittori, ma che lo diventano proprio grazie a questa passione per la scrittura. Come avrete potuto notare dalle interviste, tanti ci raccontano che è una passione naturale che avevano sin da bambini, avevano questo rapporto con la penna quasi spontaneo, e poi invece altri l'hanno presa diventando proprio diplomatici, perché se c'è un ruolo che svolge il diplomatico è proprio quello di scrivere delle note, dei rapporti, dei briefing, dove effettivamente la loquacità e soprattutto il buon rapporto con la penna e la parola rende tutto molto più semplice. E visto che siamo proprio alla fine dell'anno, io volevo ricordare anche un altro evento al quale Brussellando è anche molto legato, che è l'ebook di Liliana Ugolini. Liliana, vi ricorderete, è stata nostra ospite più volte, penso sia stata nostra ospite anche un anno e mezzo fa, quindi nell'edizione comunque di Brussellando 2011-2012. E ci aveva raccontato un po' di quelle che erano le sue ultime novità, perché Liliana continua ad esprimere veramente una vivacità intellettuale e culturale straordinaria. E noi di Brussellando vogliamo ricordare il suo ebook, perché le sue marionette, tanto amate e a cui ha dedicato gran parte della propria vita, sono state finalmente tradotte anche in francese grazie ad un ebook E grazie alla casa editrice The Book Edition che ha accettato l'opera di Liliana, che oggi è diventata Des Marionnettes in francese, con un duplice testo, quindi il duplice testo ovviamente fa riferimento al testo italiano da un lato, al testo francese dall'altro, e con le immagini di Giovanna Ugolini, un'artista veramente straordinaria, che si trovano poi a separare le due versioni. Maridì ha curato la prefazione di quest'opera. Ho scoperto anche con piacere che la prefazione è stata molto apprezzata e ha trovato molto riscontro, soprattutto in Italia, dove il 26 maggio di quest'anno Liliana ha anche presentato il libro a, ovviamente, Firenze, la sua città natia. Quindi Liliana ha presentato il libro a Firenze e io ci tenevo a ricordare Liliana, ci tenevo a ricordare questo lavoro sulle marionette. E ancora, chi fosse in ritardo, chi andrà in Italia a trovare amici e parenti, ancora non ha deciso cosa portare, andate su thebookedition.com, digitate Liliana Ugolini oppure De Marionette e lo troverete. Ci vuole qualche giorno, il libro è disponibile praticamente quasi immediatamente, oppure potete farlo recapitare in una comoda edizione, regalo. Quindi queste sono le cose belle, le cose che capitano anche quando si fa la radio e che ci fa piacere ricordare, soprattutto in questo periodo di festa, in questo periodo di gioia, in questo periodo in cui si sta tutti insieme. Dani M ha ragione, mi fa cenno con la mano, quindi c'è un altro suggerimento musicale, e questo è uno dei miei preferiti perché è Mariah, All I Want for Christmas Is You. Ed eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici, con l'agenda di Bruxellando che, come dicevamo in apertura, è ancora ricchissima di eventi nonostante le vacanze. Vorrei ricordarvi Plaisir d'Hiver, questa bellissima manifestazione che si organizza ogni anno al centro della città, quindi intorno alla Grand Place. Tra l'altro, la Grand Place quest'anno hanno allestito un presepe e un albero veramente ancora più belli di quelli che eravamo abituati a vedere gli anni scorsi. C'è sempre il gioco delle luci, quindi fate attenzione di tanto in tanto, e soprattutto dopo le 7 la sera, quando c'è un po' più buio, potrete rivedere questo gioco di colori che si alterna con una musica di sottofondo che rende la Grand Place ancora più affascinante di quella che siamo già abituati a vedere. Quindi veramente non mancate, andate, e Plaisir d'Hiver continua con tanti eventi, continua con tantissimi artigiani che espongono i loro prodotti, non solo dal Belgio ma da tutte le parti del mondo. E quindi è un momento veramente, per quanti non fossero abituati a questa dimensione multiculturale, è un momento per ritrovare tante specialità gastronomiche, per ritrovare non solo gastronomiche ma anche culturali. E un altro esempio molto interessante proprio al Grand Sablon, dove tutti i fine settimana, quindi al sabato e alla domenica, ma a Natale in particolare, e quest'anno c'è stata proprio a seguito delle notti del Sablon, a cui anche noi di Bruxellando abbiamo partecipato, vari stand che sono rimasti e che sono ancora lì, che rendono poi questo luogo già particolarmente animato ancora più piacevolmente da frequentare. Quindi veramente sono due passeggiate che meritano, per quanti si trovassero di passaggio a Bruxelles, per quanti invece non andassero abitualmente né alla Grand Place né al Sablon. Noi vi suggeriamo caldamente di partecipare. Così come ci tengo a ricordare una manifestazione della quale io spero di potervi dare molte più notizie a gennaio, quindi tra qualche settimana, ed è Terracotta Army, che è una ricostruzione spettacolare dell'armata di terracotta del primo imperatore di Cina, Qin Shi Huangdi. Spero di averlo detto bene. La manifestazione è stata inaugurata lo scorso 19 novembre e praticamente sarà allestita fino al prossimo 17 febbraio presso la Borsa, che accoglie una esposizione di circa 800 metri quadrati dal titolo Terracotta, che, come dicevamo, è proprio un omaggio all'armata di questo primo imperatore cinese, formata da 8.000 soldati, cavalli e carri. Pensate che all'epoca per costruirla ci vollero più di 700.000 artigiani operai, che è qualcosa effettivamente di straordinario, è qualcosa veramente io insomma non sono andata ancora a vederla, però riesco già a immaginare quella che era la gloria di questa armata. Tra l'altro pare che la mostra sia stata allestita anche con giochi, con tutta una serie di informazioni che potranno guidare quanti fossero curiosi alla scoperta proprio dell'armata. E tutti i giorni è possibile visitare, anche in questi giorni natalizi, tra le 10 e le 18, e c'è una notturna al mercoledì, quindi se per domani sera non avete ancora impegni, la notturna si svolge tra le 18 e le 21 e l'ultima entrata possibile un'ora prima della chiusura dell'esposizione. Ci terrei anche a ricordare che la mostra è accessibile anche alle persone con mobilità ridotta, quindi questo mi sembra essere davvero un'ottima, iniziativa. Il prezzo è anche abbastanza buono, credo, varia tra i 13 e i 6 euro, quindi come al solito i bambini e le persone anziane potranno usufruire di agevolazioni. E cos'altro? Niente, se volete saperne proprio di più, vi invito a consultare magari Agenda.me oppure andare direttamente al sito dell'esposizione che è expoterracotta.be. Ripeto, expoterracotta.be oppure, per quanti preferiscono il telefono, 0900 80 900. La prima volta che ho visto l'esposizione nemmeno ci credevo, pensavo che fosse un po' uno scherzo, invece poi assolutamente non era uno scherzo, era qualcosa di vero e tangibile che è stato proprio realizzato qui a Bruxelles. Invece, parlando proprio di quelli che saranno gli eventi che si organizzeranno alla borsa, il prossimo 7 febbraio 2012 ci sarà una mostra interamente dedicata al corpo umano e questa pure è una mostra alla quale Bruxellando cercherà di partecipare perché in realtà noi diamo tante cose scontate, pensiamo di conoscere un po' tutto di noi stessi e invece questa mostra probabilmente ci sorprenderà perché sarà capace di condurvi proprio alla scoperta del corpo umano e c'è una bella immagine che descrive la mostra con un uomo in movimento, di cui sono evidenziati soprattutto i muscoli, e questo ci dà già un po' l'idea, la prospettiva di quello che potrà essere il contenuto della mostra. L'evento, si possono riservare, i biglietti attraverso sherpa.be. Per avere più informazioni, thehumanbody.be, organizzato da Firestarter. Ovviamente presso la borsa di Bruxelles, la Place della Borsa numero 1, 1000 Bruxelles, prezzi abbastanza modici tra i 7 e i 16 euro e come detto, l'Expo apre il prossimo 7 febbraio e fino al 9 giugno 2013, quindi non mancate perché sembra effettivamente essere interessante. C'è anche un altro evento che mi fa piacere ricordare. È un evento che ci sarà invece ad aprile, sono gli Amanti della Bastiglia, che è una pièce teatrale che racconta proprio di alcune disavventure che capitano all'ombra della rivoluzione francese. C'è un'unica data che è prevista a Bruxelles presso il Théâtre National, che è proprio il 27 aprile. Quindi vi sto dicendo un po' di eventi per un'agenda, per la prossima agenda futura. Che mi sembrano essere particolarmente interessanti per quanti, siccome qui in Belgio, insomma, siamo un po' abituati a prenotare gli eventi della nostra agenda, allora tanto vale ricordare anche i prossimi eventi. Tra l'altro, invece, voglio ricordarvi invece un evento che avrà luogo proprio da domani e fino al prossimo 30 dicembre. Si chiama Festival Bay, che è un festival belgo-belge. Ah, finalmente direte qualcosa che è tipicamente belga. Ebbene sì, è un festival belgo-belge. Le Bay Film Festival riprende nei quartieri del Palais des Beaux-Arts e alla Cinémathèque e quindi vi invita. Nuovamente, per chi non si fosse organizzato, per chi insomma fosse finalmente libero da impegni, a festeggiare quelle che sono queste giornate natalizie delle stelle del cinema belga. Tant'è che ci sono tante avant-première proprio made in Belgio, ci sarà la possibilità di incontrare tanti tanti protagonisti del cinema belga, di cui però ancora io non ho avuto notizie, quindi magari riuscirò a dirvi qualcosa in uno speciale di Bruxellando. Intanto però vi posso dire che il film festival ha un proprio sito che si chiama bfilmfestival.be, che Si può prenotare al Palais des Beaux-Arts attraverso anche il sito internet e che la manifestazione avrà luogo tra il 26 dicembre e il prossimo 3 dicembre, e, scusatemi, il 30 dicembre e i biglietti sono anche abbastanza convenienti perché variano tra i 4 e i 6 euro e quindi insomma pare essere effettivamente accessibile per tutti quanti. Se mi concedete ancora un minuto, magari come dice Dani M dalla regia, possiamo lanciare un suggerimento musicale, probabilmente riuscirò a dirvi anche qualche informazione supplementare su questo film festival. Che io credo valga la pena veramente raccontare, primo perché siamo a Bruxelles, secondo perché siamo in Belgio, terzo perché questo cinema belga riesce sempre a raccontarci in maniera diversa, soprattutto l'integrazione, che è un tema molto caro a Bruxellando. Quindi, dopo la pausa musicale, vi parlerò in più dettagli di questo affascinante film festival, e come avrete potuto notare, ormai questa è una delle passioni di Bruxellando: andare alla scoperta di quello che è il cinema che si propone oggi nelle sale brussellesi. A tra pochissimo, cari amiche, cari amici, bentrovati a Maridie Microfoni in questa puntata speciale dedicata al Natale. Prima del suggerimento musicale, vi stavo raccontando di questo film festival belgo-belge, di questo Be Film Festival, e vi voglio ricordare soprattutto il film di apertura di domani sera, quindi di mercoledì 26 dicembre, che è Au nom du fils de Vincent Lannou, che è stato scelto per aprire la manifestazione. Il film sarà proiettato proprio in anteprima domani sera al Beaux-Arts in presenza dell'equipe e la stessa proiezione sarà poi seguita da un cocktail. Tutto questo domani sera al Beaux-Arts alle 19 e il costo invece per domani sera sarà di 10 euro. Qualche riga anche sul film per incuriosirvi, perché credo che dato il periodo ci sia un motivo per il quale gli organizzatori hanno scelto di aprire con questo film. Quando una donna di fede, animatrice di una rubrica sulle frequenze di una radio cattolica, scopre quelli che sono gli atti di pedofilia nella chiesa, subisce quello che è il suicidio del figlio, la sua vita cambia radicalmente alla ricerca della verità. Non sappiamo se la verità la troverà, ma il tema sembra essere abbastanza interessante per poter dargli un seguito. Quindi vi ricordiamo, quindi domani sera 26 dicembre alle 19 presso il Palais des Beaux-Arts, Au nom du fils di Vincent Lannou. Quindi vi suggeriamo veramente di andarlo a vedere perché sembra interessante. Poi, per quanti fossero curiosi, per quanti avessero domande, la stessa equipe sarà presente. Invece, il 28 dicembre alle 22 c'è il concerto belgo Haïtien VV de Jean Pack, e questo è anche un modo per ricordare quello che è accaduto proprio qualche tempo fa in quest'isola che è stata veramente distrutta dalla pioggia. E c'è il Blind Test Cinema invece il 29 dicembre alle 21:30, e poi invece il 30, alla vigilia di quella che poi di quello che è l'ultimo giorno dell'anno, ci sono più DJ che animeranno la serata: Tom Hen, Valérie Rosier, Silence Radio, Géraldine Doignon de l'Air Vivant e Serge Riaboukine di Invader. Quindi non c'è soltanto cinema, ma c'è anche tanta musica. E vi ricordo, dal 26 al 30, dal 26 al 30 di dicembre, per quanti non avessero deciso, Bruxelles offre ancora tantissime possibilità, quindi per non annoiarsi, per non restare in casa, perché nonostante il freddo, e qui a Bruxelles quest'anno, in questo mese di dicembre, veramente fa tanto freddo. Io insomma cerco di non lamentarmi mai, però in questo periodo non so perché, ma il freddo è stato particolarmente intenso. Ebbene, è il giorno di Natale, io spero che lo state trascorrendo in famiglia, con gli amici, comunque nel migliore dei modi. Spero che i bambini all'ascolto abbiano ricevuto tanti doni dal Babbo Natale, perché qui a Bruxelles non arriva più il Babbo Natale, arriva San Nicolà, l'abbiamo già ricordato, tra l'altro il nostro George, a cui vanno i miei saluti, e la nostra Fiordaliso, a cui pure vanno i miei saluti, hanno proprio ricordato delle cosine un po' sul Natale, e soprattutto il nostro George aveva letto una fiaba per i nostri bimbi all'ascolto. Allora ricordiamo magari che cosa festeggiamo oggi, perché poi di tanto in tanto chi ha i bambini probabilmente ricorderà una serie di cose, perché i bambini sono creativi, vanno a scuola e credo che anche in Belgio ci sia l'usanza di regalare poi alle famiglie un piccolo lavoretto. Spero che i bambini meno timidi e quelli più timidi oggi abbiano potuto recitare la poesia, così come si faceva tanto tempo fa, dinanzi alle persone più care. Ebbene, il Natale è una festività ovviamente cristiana, si ricorda, si celebra la nascita di Gesù ed ecco perché è detta Natività. Per noi cristiani, diciamo occidentali, quindi per le chiese occidentali il Natale si celebra, si ricorda il 25 di dicembre, mentre per le chiese greco-ortodosse cade il 7 gennaio. Queste adottano il calendario giuliano e quindi ci sono delle differenze proprio temporali. Il termine, figuratevi, deriva dal latino natalis. Qui Giorgio ovviamente mi manca perché lui avrebbe potuto un po' arricchire la genesi linguistica della parola stessa e significa relativo alla nascita. Sicuramente è una festività molto interessante perché tutto sommato riesce ancora ad unire le famiglie, gli amici, a stare un po' tutti quanti insieme. Vi ricorderete, 2 settimane fa abbiamo avuto qui con noi in radio Antonella Ferrigno, rappresentante di questa famiglia napoletana che da più di 2 secoli ormai produce un presepe, ritorna alla terracotta nuovamente di cui parlavamo poc'anzi. E il presepe poi è una di quelle tradizioni che ormai abbiamo adottato da tanti secoli, così come l'albero di Natale. E pensate, entrambe le tradizioni nascono proprio in Europa meridionale, saranno poi successivamente diffuse nel nord Europa. Io spenderei magari qualche parola sul presepe, perché il presepe soprattutto in Italia è molto sentito. Ascoltavo per esempio al telegiornale qualche giorno fa una famiglia bergamasca che proprio apprendendo dalla famiglia Ferrigno a Napoli ha creato pure a Bergamo una forte tradizione di presepe, il che quindi vuol dire che questo presepe ormai si è affermato un po' dappertutto, che sorvola quelli che sono i confini che possono sembrare puramente, in questo caso, campani. Come sapete in Italia la tradizione risale all'epoca di San Francesco d'Assisi, che nel 1223 realizzò a Greccio la prima rappresentazione vivente della Natività. Sebbene esistessero anche precedentemente immagini e rappresentazioni della nascita del Cristo, queste non erano altro che sacre rappresentazioni delle varie liturgie celebrate nel periodo medievale. Il primo presepe scolpito, però, di cui si ha notizia è quello realizzato da Arnolfo di Cambio tra il 1290 e il 1292. Le statue rimanenti si trovano oggi nel Museo Liberiano della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. L'iconografia del presepe ebbe un impulso nel 400 grazie ad alcuni grandi maestri della pittura. Il Botticelli, nell'Adorazione dei Magi, che si trova presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, che raffigurò personaggi della famiglia Medici. Nel 400 anche Luca e Andrea della Robbia si cimentarono con le loro terracotte in scena della Natività, per tutte valga per esempio quelle del convento dell'Averna. Un'altra terracotta robbiana, con sfondo affrescato da Benozzo Gozzoli, si trova nel Duomo di Volterra e rappresenta i pastori e il corteo dei magi. E ben presto questo tipo di simbolismo fu ampiamente recepito a tutti i livelli, soprattutto all'interno delle famiglie, per le quali la rappresentazione della nascita di Gesù con le statuine ed elementi tratti dall'ambiente naturale diventò un rito irrinunciabile. Nel XV secolo si diffuse l'usanza di collocare nelle chiese grandi statue permanenti, tradizione che si diffuse anche per tutto il XVI secolo. Pensate, uno dei più antichi tuttora esistenti è il presepe monumentale della Basilica di Santo Stefano a Bologna, che viene allestito ogni anno per Natale. Magari Dani M ci potrà raccontare qualcosa in più. Dal XVII secolo il presepe iniziò a diffondersi anche nelle case dei nobili, sotto forma di soprammobili o di vere e proprie cappelle in miniatura, anche grazie all'invito del Papa durante il Concilio di Trento, perché ammirava la sua capacità di trasmettere la fede in modo semplice e vicino al sentito popolare. Però il più grande sviluppo dei presepi, soprattutto i presepi scolpiti, si ebbe più tardi. Si ebbe veramente nel 1700 e lì c'è effettivamente l'affermazione del presepe, quello che poi, come dicevamo, anche attraverso la famiglia Ferrigno ha avuto poi la maggiore, ha avuto una forte, una fortissima tradizione. E tra l'altro ho pure scoperto, perché c'era questa cosa che io non sapevo, che proprio Bologna è una delle città nelle quali il presepe si è pure affermato in un certo modo. E quindi ci sono tante cose che effettivamente, quando poi si studiano, ci permettono perlomeno di poter avere più dettagli e di poter veramente raccontare qualcosa che vada al di là di quelle che è la simbologia stessa del presepe, cioè quella della grotta, delle stelle, dei re magi, dei pastori, del bue, dell'asinello, che restano comunque una simbologia estremamente interessante. Quindi Antonio Maragliano, mi scuso se di tanto in tanto mi fermo, ma sento malissimo in cuffia e di tanto in tanto mi pare di non sentire più assolutamente nemmeno la mia voce, quindi non me ne vogliate. Spero che la qualità audio anche questa sera sia come al solito. Quindi eravamo al presepe, eravamo ad Anton Maria Maragliano, e solo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il presepe arriverà anche negli appartamenti dei borghesi e del popolino, ovviamente in maniera meno appariscente, resistendo fino ai giorni nostri. Pensate che comunque la tradizione proprio dei Ferrigno è anche quello di arricchire il presepe con elementi moderni, quindi insomma immagino che anche quest'anno, così come ci raccontava Antonella due settimane fa, ci sono tante cose che riguardano un po' il governo, un po' il calcio, un po' altri episodi che capitano nella società italiana. E tant'è che lo stesso presepe napoletano nasce già in maniera diversa rispetto agli altri, perché aggiunge alla scena molti personaggi popolari, osterie, commercianti e case tipiche dei borghi agricoli, tutti elementi palesemente anacronistici. Questa è comunque una caratteristica di tutta l'arte sacra, che almeno fino al XX secolo ha sempre rappresentato gli episodi della vita di Gesù con costumi ed ambientazioni contemporanee all'epoca di realizzazione dell'opera, il che ovviamente rende sempre la natività proprio assolutamente attuale. Invece torniamo finalmente, ho potuto ricostruire anche il riferimento al presepe bolognese, vengono aggiunti alcuni personaggi tipici come la Meraviglia, il Dormiglione e di recente la Curiosa. Il presepio trentino infine è imparentato con le sculture lignee del Tirolo e trova una tipica ambientazione in alcune produzioni caratteristiche originali, soprattutto nelle valli laterali dell'Adige, come testimonio tra gli altri i presepi di Tesero in Valle di Fiemme. Però, e questo pure ci tengo a ricordarlo, il presepe non è una creazione proprio solamente italiana. Essendo un prodotto culturale, il presepe si diffonde nelle diverse culture con significative varianti. Anche se l'idea di base, cioè quella di ricreare la fatidica scena della nascita del Cristo, resta invariato, lo stesso non si può dire per i materiali usati e gli stili di costruzione dei diversi presepi. Per quanto concerne, per esempio, la diffusione del presepe nel mondo, possiamo suddividere tutte le varianti presepiali in due grandi macro aree: quella europea e quella comprendente il resto del mondo. Più specifico, appartengono all'area europea con diverse varianti il presepe spagnolo, quello provenzale, il presepe nei paesi di lingua tedesca e i presepi nei paesi dell'est europeo. Fanno parte invece nella macroarea del resto del mondo maggiormente i presepi dell'America Latina e quelli di origine orientale ed etnica. Ora, non abbiamo il tempo di percorrere tutti i presepi che vi ho citato, però volevo ricordarvi, le origini del presepe in Spagna sono sicuramente da rintracciare all'epoca della dominazione borbonica a Napoli. Infatti, gli scambi e traffici che si attuarono tra Napoli e la Spagna influenzarono quest'ultima sulla tradizione della costruzione del presepe e durante il periodo natalizio. Invece in Spagna il presepe si diffuse maggiormente nella regione della Catalogna, grazie anche alla passione di Ramon Amadeu, che visse tra il 1745 e il 1821, che è il più famoso scultore dell'epoca, che si dilettava nella costruzione dei pastori di Creta. Quindi abbiamo visto che i fratelli Ferrigno lavorano la terracotta, invece Ramon Amadeu lavorava la Creta. È da ricordare tuttavia che la prima associazione di appassionati del presepe nacque proprio in Spagna intorno al 1860, anche se quest'ultima ebbe una vita assai breve. Si diffuse allora la più importante Association des Pesebristas, che dal 1921 influenzò anche le successive scuole. Tra i vari appassionati del presepe si distaccarono alcuni abili artigiani che diedero vita alla scuola del gesso catalana, che stravolsero l'idea del presepe allora in voga. Quindi abbiamo già visto, passiamo dalla Creta al gesso, e tant'è che questi poi sono rimasti famosi perché diedero vita al cosiddetto presepe storico, ossia quello che più riproduce fedelmente paesaggi, costumi e costruzioni della Palestina ai tempi della nascita di Gesù, che ovviamente sono in contraddizione con quello che, come abbiamo visto, è il tipico presepe napoletano. Veniamo invece ad un altro presepe, di cui pure ne abbiamo velocemente menzionato le caratteristiche, che è il presepe provenzale, il quale pure presenta delle novità estremamente interessanti, perché, pensate, nasce nel 1200. La cosiddetta Madre Pica, che costruiva rappresentazioni di scena di vita religiosa in Provenza e in lingua d'oca. Alcuni studiosi, infatti, ritengono che la tradizione del presepe nacque proprio in Francia e che San Francesco d'Assisi non fece altro che replicare questa tradizione con alcune significative varianti. Il presepe provenzale è comunque influenzato anche dall'arte italiana, perché comunque, data la vicinanza, così non può essere, in particolare dai tratti del barocco italiano, e non si sviluppò prima del Settecento. Per ricreare i pastori si utilizzavano manichini lignei con mani, teste e piedi in terracotta o cera, segno evidente di una influenza dell'artigianato italiano. A livello storico, invece, la Rivoluzione francese spezzò la tradizione del presepe, tradizione che riaffiorò prepotentemente ai tempi del concordato tra Pio VII e Napoleone Bonaparte. Il presepe entrò nelle case più umili anche grazie all'azione del figurinaio Jean-Louis Lagnel, che produceva pastori di argilla prodotti in stampi a basso costo. Oggi queste statuine d'argilla, dette santons, si trovano numerose in vendita in tutti i mesi dell'anno nei negozi di souvenir per turisti, questo ovviamente in Provenza. Allora, io direi che prima di continuare con la storia degli altri presepi, possiamo dare la parola, o comunque la musica in questo caso, al nostro Dani M, e ascoltare proprio un suggerimento musicale, così che posso poi raccontarvi più cose sul resto dei presepi. A tra pochissimo. Cari amiche e cari amici, eccoci qui nuovamente con Radio Alma, brussellando il 25 dicembre, il giorno di Natale. Spero che vi stiate divertendo, e soprattutto, se siete in macchina, avete un po' bevuto, state attenti, fate attenzione, fatevi sostituire da qualcuno, perché la vita è preziosissima e vale la pena di viverla fino all'ultimo, in maniera sana. Però continuate a divertirvi, il divertimento è tante cose, il divertimento è stare insieme, il divertimento è trascorrere queste giornate di festa con le persone a voi più care e soprattutto in maniera, come dicevamo, sana, perché come diceva il nostro Amadio Bianchi la settimana scorsa, io ne approfitto pure per salutare Amadio, il quale è veramente un maestro straordinario, che sarà poi a Bruxelles il 4 febbraio, la salute comincia proprio dalla bocca. Continuiamo quindi quella che è l'affascinante avventura del presepe, perché è il giorno di Natale, abbiamo ricordato quella che è la nascita del nostro Gesù, quindi con la Natività, e continuiamo quindi con la rappresentazione di questa Natività. Abbiamo visto la rappresentazione napoletana, spagnola, provenzale, e c'è un'altra tradizione che è molto diffusa e sentita, che è il presepe nei paesi di lingua tedesca, anche perché la leggenda vuole che nel Duomo di Colonia, in Germania, si trovino le spoglie dei re magi, qui trasportate da Milano dall'imperatore Federico Barbarossa nel 1164. In molte città come Monaco, Augusto, Norimberga, si allestiscono nelle piazze dei veri e propri mercati di Gesù Bambino, letteralmente Crystal Kindle Market, spero di averlo detto bene. In questo rustico e caratteristico mercatino si vendono molti pastori e presepi veri e propri, oltre a dolciumi e decorazioni tipicamente natalizie. In effetti ci sono tanti mercatini che sono conosciuti in Germania proprio per in questo periodo dell'anno. C'è uno bellissimo che, scusate, non ho ricordato, che è pure quello a Strasburgo, che vale la pena di visitare. Se non ci siete stati, credo che valga proprio la pena fare un salto in questa bellissima cittadina al sud della Francia, metà francese, metà tedesca, e effettivamente forse sarà pure per questa sua tradizione tedesca che il presepe effettivamente e i mercatini sono ancora molto diffusi. E avevamo visto che c'era come collocazione anche dei presepi quello dell'est europeo, perché è vero, pensiamo che questo est sia stato comunista, che non sia religioso, che non ci sia in nessun modo una tradizione cristiana, invece poi così non è, tant'è che in quest'area di cui parliamo ci sono quattro tradizioni diverse, rappresentato da quattro nazioni diverse, quindi Ungheria, Russia, Polonia e Slovacchia. La tradizione ungherese, quindi ne approfitto per salutare la nostra Fiordaliso, vuole che il presepe o Betlemme si costruisca in una cassa a forma di chiesa o stalla e che sia trasportabile a mano. I personaggi che animano il presepe invece sono fatti di legno o carta o tutta più di ovatta, e davanti a questa rappresentazione arde costantemente una candela votiva. Il presepe russo invece è costruito su due piani. Sul lato superiore vengono riprodotti i classici episodi della nascita del Cristo in una grotta. Sul lato inferiore invece vengono riprodotte scene umoristiche di vita quotidiana e popolare. In Polonia, invece, tradizione vuole che il presepe abbia forma di una cattedrale ricoperta di carta stagnola colorata. Si compone di tre parti: una superiore, dove angeli annunciano il tanto atteso evento della nascita del bambino Gesù. E in effetti è straordinaria poi come da un'idea si possano trovare così tante traduzioni pratiche. E infine la parte inferiore è costituita da rappresentazioni di contadini polacchi insieme ai re magi. Per quanto riguarda la Slovenia, invece, in ogni casa contadina si costruisce un presepio che adornerà un lato della casa definito per questo sacro. E infine un ricordo per tutti coloro i quali ci ascoltano anche dall'altro lato dell'oceano, e sappiamo che ce ne sono tanti in America, ce ne sono tanti in Brasile, in Argentina, quindi colgo l'occasione veramente per augurare a tutti una Feliz Navidad, che il presepe nei paesi dell'America Latina può essere definito un presepe folcloristico, a cui si dà risalto il sole splendente e l'azzurro dei cieli, in quanto in questi paesi il Natale ricade in piena estate. In questi luoghi il presepe si diffuse a causa dell'evangelizzazione degli indigeni da parte di gesuiti e sacerdoti portoghesi, spagnoli e francesi. In Africa, invece, i primi presepi che si costruirono erano fatti di gesso e furono portati dai missionari. Fu difficile riuscire a convincere le popolazioni locali che Dio avesse sembianze di un neonato bianco. E quindi, insomma, io immagino quello che sia stato anche il lavoro che sia stato fatto da questi frati, da questi gesuiti, i quali si trovavano veramente confrontati ad una culturalità, una multiculturalità, come poi avvenne, totalmente diversa da quella delle terre di origini. Comunque, Insomma, immaginate, no? Dover mostrare un bambino bianco. Col passare del tempo, il presepe africano si è arricchito di scenografie e materiali maggiormente di origine africana. E nei lontani paesi d'Oriente il presepe si affermò soprattutto nelle varie oasi cristiane. Si parla, per esempio, che l'imperatore delle Indie Akbar, che è vissuto tra il 1556 e il 1605, nonostante non si convertì al cristianesimo, provò sempre grande simpatia per quest'arte che lasciò diffondere nel suo vasto impero. Quindi il presepe è veramente un qualcosa che non finirà mai di stupirci perché veramente ci porta indietro nel tempo, credo che tutti quanti coloro i quali sono all'ascolto abbiano un ricordo, siano legati in un modo o in un altro appunto al presepe e effettivamente l'albero di Natale e il presepe sono i due simboli più importanti che continuiamo nonostante tutto a conservare un po' nelle case. Come abbiamo visto, non solo italiano, ma anche europee e anche in altri angoli del mondo, come qui dell'America Latina. Allora, io vedo Dani M già pronto per un altro suggerimento musicale, però prima di ascoltare Dani M, invece vi direi di ascoltare ancora me perché ho qualcosa da raccontarvi sull'albero di Natale. Perché l'albero di Natale, effettivamente, insomma, per chi non amasse il presepe, di sicuro c'è qualcuno che ama questo abete che è addobbato con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchettati e altro. È uno dei simboli più importanti del Natale. E pensate che in Italia la tradizione vuole che l'albero sia preparato proprio il giorno dell'Immacolata, che è l'8. È l'8 dicembre, mentre a Milano l'albero di Natale viene preparato a Sant'Ambrogio, che è il patrono di Milano, e si festeggia il 7 dicembre. Perché l'albero? Perché l'albero è simbolo di vita, ha origini molto antiche e trova riscontri in diverse religioni. Gli alberi che in genere si usano per il Natale, per esempio in Italia, è un peccio, Picea abies, detto anche abete rosso, mentre nell'Europa centrale, nei paesi nordici, perché ovviamente paese che vai, usanze che trovi, ci sono abeti cosiddetti abies alba o abies nordmanniana, e più raramente si usano pini o altre conifere sempreverdi, però poi ci possono essere anche altri tipi di albero, come ad esempio la Magnolia grandiflora. Come sappiamo, poi, soprattutto ai visitanti anche al mercato Place Flagey, ci sono anche alberi artificiali, perché insomma c'è stata poi tutta una polemica anche sugli alberi, quindi insomma si ricorre anche all'albero artificiale. E come tutti sappiamo, poi ci sono tante decorazioni, no? Ci si può sbizzarrire come meglio insomma, si crede. C'è chi addirittura utilizza la frutta secca, chi utilizza la frutta colorata come le arance, i biscotti allo zenzero, che sono buonissimi, le decorazioni in pasta di sale o marzapane, piccoli personaggi, giocattoli, insomma, non vi è assolutamente alcun limite alla creatività di chi addolba l'albero, che quindi può essere, pur nella tradizione, un albero, cioè o comunque una creazione assolutamente estremamente personale. E fra i colori più tradizionali delle decorazioni natalizie si devono probabilmente citare il rosso, l'oro e il blu, che sono i colori che più ricorrono proprio in questo periodo natalizio. Allora, io sono quasi al termine di questa brucellando, veramente avrei tantissime cose da raccontarvi, però per il momento ci fermiamo qui. Io do la parola al nostro Daniele e poi torniamo in studio per gli ultimi saluti e gli ultimi minuti finali. A tra poco, anzi, a tra pochissimo. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Maridia ai microfoni, Radio Alma, brucellando 101.9, il 25 dicembre, il giorno di Natale, brucellando qui con voi questa sera. Abbiamo avuto una puntata effettivamente dedicata agli eventi di questi giorni natalizi. Abbiamo suggerito qualche regalino per quanti non avessero ancora concepito l'idea giusta, per quanti si mettono in viaggio, e so che ce ne sono tanti, tra oggi e domani, oppure nei prossimi giorni, e anche suggerimenti di regali, suggerimenti di eventi, di cui brucellando ormai sta diventando veramente sta diventando effettivamente un punto di riferimento. Vi ricordo inoltre il nostro blog che è www.radioalma.eu/brussellando, dove non solo ritroverete tutte le nostre puntate in podcasting, ma ritroverete anche gli eventi dell'agenda culturale. Il tempo è ai tiranno, lo dico sempre, sembra essere quasi diventato un mio leitmotiv, però è proprio così. E quindi sono alla fine anche di questa puntata che sembrava effettivamente potermi dare lo spazio, il tempo di riuscire a parlare di tante cose. Poi in realtà siamo sempre confrontati a dover scegliere. Quindi mi auguro che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Spero di avervi fornito qualche informazione in più sul Natale, sull'albero di Natale. Io saluto i miei compagni di viaggio, Georges Laurent e Fiordaliso, che sono in Italia. Saluto Dani M, in regia, e se non ci fosse lui, Brussellando non potrebbe mai andare in onda. Saluto anche tutta la direzione di Radio Alma, la direzione di Brussellando, quindi saluto Sam, saluto Dani e saluto Giuseppe. Saluto anche gli stagiaire che ci sono qui finalmente anche a Radio Alma, a Brussellando. Saluto anche tutti i colleghi che sono impegnati con le trasmissioni di Radio Alma, quindi saluto Valentina e Diego e tutti quanti gli altri. I nomi sono davvero tanti, i minuti sono proprio pochi. E questa è l'ultima puntata dell'anno, l'ultima puntata del 2012 per Brussellando. Però il 1º gennaio, martedì, quindi Brussellando sarà ancora con voi anche martedì prossimo. Quindi intanto io vi auguro ancora un'ottima serata natalizia. Intanto vi auguro ancora di divertirvi, si organizzate le tombole, mi raccomando, la smorfia napoletana vi promette di sorridere ad ogni minuto, quindi veramente ad ogni numero e a ogni minuto anche eventualmente. E ne approfitto veramente per ricordarvi che è il giorno di Natale, che è un giorno veramente che va vissuto in armonia, soprattutto in questi tempi che non sono assolutamente facili per nessuno. In Italia il governo si è dimesso, quindi tra l'altro andremo alle urne proprio molto velocemente, quindi tra 2 mesi di questi tempi dovremo esprimere un voto, quindi il 2013 si apre sicuramente con tante sfide, come se poi il 2012 non ce ne avesse riservate già tante, invece poi nel 2013 ce ne sono ancora di più importanti da dover affrontare, quindi è davvero un anno che si preannuncia caldo anche in tempi invernali. Ovviamente è un modo per dire che abbiamo superato anche la paura di questo 21 dicembre, che abbiamo superato tranquillamente, quindi la profezia non si è avverata. Probabilmente per i Maya quei numeri significavano ben altro. Sicuramente c'è un cambiamento in atto, e di questo cambiamento continueremo a parlare nella prossima settimana. Quindi martedì augura veramente ancora a tutti voi un ottimo Natale, un'ottima serata, soprattutto divertitevi, divertitevi tanto, perché quando ci si diverte non si sbaglia mai, perché il divertimento fa parte anche della condizione della natura umana. Noi ci ritroviamo qui il prossimo 1º gennaio, quindi non vi faccio ancora gli auguri di buon anno, perché ve li farò in diretta, direttamente il prossimo 1º gennaio, il 1º gennaio martedì, quindi Brussellando sarà con voi anche il 1º gennaio. Buona serata a tutti, buona settimana a tutti, perché siamo ancora a martedì e sono tanti gli eventi a cui potete ancora partecipare questa settimana, e ci ritroveremo quindi su Radio Alma, Brussellando 101.9, oppure direttamente in streaming martedì prossimo alle ore 20. Buona settimana a tutti e buonasera da martedì.